Il punto di Stefano Folli. Riproporre oggi la legge sulle intercettazioni telefoniche equivale a collocare una piccola mina sulla strada del governo Letta. Piccola, perché bisogna capire quanto lo stesso PDL sia convinto dell'utilità di avviare una prova di forza su questo tema controverso. Probabilmente al momento tale convinzione non c'è affatto. Il centrodestra ha bisogno di compiere un gesto dimostrativo. Il centrosinistra, con il neosegretario Epifani, ha bisogno di rispondere a tono. Ma la cosa finisce lì. Berlusconi ha di sicuro interesse a lasciare che un po' di fuoco continui a covare sotto la cenere, ma non ha ragione o motivo di farlo divampare, almeno non su una vecchia bandiera un po' logora come la questione delle intercettazioni.